Natalia Massana, io e un amico, eravamo dalle parti di, come si chiama, insomma eravamo di fronte a Duquel. La moglie di Natalia Massana si scaldava sempre più, importante, appena si sono bruciati i finali. Ma no, per la Inter che me l'aveva cambiato in un mezzetto così, 50 euro, no, 50.000 lire. Che cazzo, avete 3-14, avete stato per 50.000 lire e spesso. Cazzo, come sono nato io. Dell'epoca, e vabbè, Antonio, non è solo il materiale, è una mano d'opera, è la spedizione, scusa Antonio. Ehi, vabbè, ma non sai quanto costavano i finali, 1.000 lire, 2.000 lire massimo o di più, tu figurati. Cazzo, a me si è fatto lo sgombo. Perché era dolo, naturalmente, perché mi pare fosse fuori garanzia era. E comunque era dolo mio quello, quindi. Ma quanto avevo urlato quella volta. Comunque era tenere in gomma e boh, tremendo proprio. Una schifezza nei portatili. Erano belli quelli, ho detto a Gianni, quel famoso Handicom 80. Antenna introcontenuta, chassis in alluminio, tutto completo di prese varie, microfoni, trasmitter, tutto ci aveva, cazzo. Lo sto piangendo, lo sai. E già non credo. Guarda, era l'unico portatile che conoscessi, cioè vero portatile, che aveva la presa microfonica a 4 pin per i microfoni classici. Figurati. Hai visto già, dannaggio da quel periodo, Marco, adesso meno male già è diventato più grande e non smonta più niente. Adesso gli apparecchi lascia come sono, quello che cosa adesso, come li lasciati così. Dipende però, Antonio. Certo, questo costa 50 euro, costava la spedizione. Questo speciale, se no costa 90. Durante la serie di apparecchi belli costano, i belli però, non gli si cagati. E ora, Gianni, cosa stai combinando di bello? Mi sono sdraiato e mi sto ascoltando. Adesso, fra poco allora ti chiudi gli occhi e pensi allo stipendio di domani. Luci blu, essere più soft. Hai capito, Marco, si è messo le luci blu per esatto che vorrebbero rosse. Ma ci mette le lampadine rosse, ecco perché fa riposare gli occhi. Poi non ci vediamo, fa un culo poi, cazzo. Ti alzi, cazzo, ti ho un gabbalo. No, le luci di cortesia sono una rosse. Guarda, è puma. Ma il ballone di luci rosse di quelle, quando vai, capito, per fare ciucucciù, che usano le luci rosse soffuse, cazzo, per fare l'ambiente in modo che quello là si concentri. Perché il rosso è eccitante. Ah, cosa, Marco? Perché il rosso è eccitante. E nelle case di appuntamento ci sono le luci rosse per fare ciucucciù. E allora, che adesso prendevano, non le ho più visto, non sai quelle. Noi le avevo tutti i giorni. Abbiamo spesso perché mi telefonavano, vieni, sistema l'antenna, mettimi, comprami il ricevitore satellitare. Adesso non l'ho più vista, evidentemente ci deve essere in crisi. Devo cambiare la parabola qua. Tutta rugginosa e non riflette più all'illuminatore niente, capito? So quanto costi, quanto costa una parabola da 80, Antonio? Parabola, c'è illuminatore. La parabola, intorno ai 30 euro, non pare che viene. La bricomen. Sono la bricomen. E la tetta la prendo la parabola, c'è solo la parabola con la gaffa, senza illuminatore. Vabbè, illuminatore, sai quanto costa? Mi sembra costa 6 euro, 7 euro, non ti credi che costi molto, no? dal 2000, figurati, già 13 anni e mezzo quegli illuminatori. Cioè che sia buono, ma... Che cazzo si è cambiato? Cambia tutto, cosa ti la fotti? Aspetta che controllo, te lo dico subito quando viene. Dovrebbe aver ricattato il libro di com'è. 2004. Sì, ma vedi com'è una poca scelta. Devo pigliare la Fusaro. Poi cosa conviene prendere? La nocciola, cioè beige, questa è grigia, addirittura era grigia. Solitamente la metto tutti grigi. Oh, eppure io ne vedo di più color crema, no? Beige. E anche crema, sì. Me la metto rosa a pua bianca. La razza del Corremma è una cosa che non si crede, guarda. Prima propagazione. Ah, insomma, certe volte dà anche fastidio. Dito che arrivavano forti quelli, ma di dove erano? Dita, sembravano Sassari. E il libro si è parti, ne abbiamo collegato. Di uno era siciliano, un altro era di Matera, poi l'altro dove cavolo era, e uno vicino a Napoli, vicino a Caserta. Caspita, e io ero con quella cagata di antenna, Mozzicone, pure li sentivo come se fossero a Sassari o dintorni. Caspita, mi ricordo gli anni 80, e si arrivava la propagazione fissa a 9. La mia antenna, la Grand Prix messa bassa, era molto più bassa di quanto è messa questa adesso. Solo la propagazione fissa in estate a Santiago Nove, allucinante. Ehi, comunque con l'antenna lì la mettiamo a posto, vedrai. Ma è strano, guarda, io ho visto che chiudendola tutta, l'uno ha 2,5 di stazionarie. Quanta c'è la roba di 4 di stazionarie? Ma cosa mai vista? Normale già, cosa essere poco tarata, ma questa è proprio fuori. Ma sì, la metti a posto. Quindi era da accorciare. È strano, perché lì la regolazione si fa con la, diciamo, una vita brugola. Vedi un po', sollevi o abbassi lo stilo, come nella mia, come nella maggior parte delle antenne. Io ho mai sentito che l'avessero tagliata, sicuramente difettosa, però sai già, quello l'ha raccomandata, 5 euro ti costa, più il corriere, ti dicevo di spedirgliela, poi alla fine me ne tornano 20 solo, anche per la fatica nella fila delle poste, guarda. Oh Marco, tu non l'hai mai sentito perché in vecchi tempi non li conosciuti, Marco. Ma io già li ho conosciuti, li ho sempre tarati così le antenne e ci ha avuto sempre un euro di stazionario. Marco! Forse le vecchie antenne, mi attendo. Allora, pago la cosa, 13,90 più 4 euro, 8,90 euro di zanca e l'illuminatore costa 4,90 euro. Quindi cresci... è un 25-30 euro con di più, la completa. Che colore è la parabola? Da 80 euro. Che colore è la parabola? Bianca è. Ah, bianca beige? No, bianca proprio non beige, io ho un catalogo qua del bianco di colore, quindi scendi pochissimo, non che spendiamo. Disco parabola sui zanzo 80 cm, 13,90 euro, fai 14 euro, più 8,90 euro di staffa per agganciare dietro, in pratica quella che dove agganci l'illuminatore e più agganci il palo e poi l'illuminatore, basta. Che costa il mio cosa, quello è da 4,90, poi c'è quella a due uscite, perché puoi piazzare in pratica due cavi, uno nella camera e uno nell'altra, e costa 10,80 euro o 10,90 euro, capito? Poi c'è il NB monoblocco che fa 8 birde e asta, quello qui è 17 euro, poi riceve due satelliti assieme. Ah, il doppio illuminatore? No, quello no. Ah, Antonio, quell'antenna era stata messa, sì, che io ricordo all'incirca nel 2000, e noi vedevamo il grande fratello su Stream, cioè non esisteva Sky prima, e c'era Stream, e abbiamo ancora, mi pare, il decoder attaccato Stream, buttato da qualche parte. Sì, quello di colore blu già lo conosco, l'Italtel, quello è. Mi pare che sia proprio Italtel, Stream, è stato un passaggio, è diventato Sky. Gesù, il grande fratello. La prima volta era una novità, adesso mi chiedo chi lo guardi più. Funzionano ancora con i ricevitori, funzionano come quelli, non è l'ultimo modello, attualmente l'ultimo grido, però funzionano ancora, quindi veri, basta fare la numerazione per i veri programmi di Sky, li vedi tutti, però poi ti devi mettere la carta naturalmente, poi c'è poi un ricevitore ultima generazione, che quello che ti registra è totalmente una cosa diversa. Se no ti metti il Digisat, come ricevitore costa intorno ai 100 euro, se mi ricordo male, vedi tutti i canali in chiaro, della Rai, la Fininvest e altri programmi vari, c'è la scheda che ti danno loro, che non paghi, che è gratis, e vedi tutto in chiaro, capito? La possibilità, perché lo sai, nei programmi, con la scheda Rai, in pratica la vedi o non la vedi, non vedi i mondiali, non li vedi, invece con Digisat sì. E cosa ti volevo dire? Ma che credo di avere ancora buttato, non lo mi pare, ma decoder satellitare analogico, e prima di avere Sky Stream, no? Avevamo decoder analogico e vedevi quello che veniva mandato all'epoca. In un forum, non so quale, ho letto che alcuni radioattori un decoder analogico satellitare non modificano, fanno non so cosa, gli serve per una cosa legata alla loro attività. Non so se li ascolto più che altro. Poi vado a trovare adesso il post. Non tu dico ricevitori, se ne vuoi. Compete il telecomando, quelli analogici. Io due qua. Se ti vuoi divertire, se in quel forum ti fanno bere la modifica e ce la fai, te la fai e te lo piaccio, anche non ci vuole molto, ma va bene, questa una volta si usava per vedere, trovare il ponte di trasferimento quando trasmettevano in diretta, capito? Che c'è la frequenza, c'è il ponte di trasferimento di canale 5 della Rai, capito? E la gente si guardava la trasmissione in diretta, senza pubblicità, senza niente. No, non piazzo niente, non ne voglio il baracco, non ne voglio imbarazzi ulteriori, che Gianni ancora si è addormentato o no? Non posso parlare, vi saluto adesso, non arrivo con l'inizio. Fai un passaggio veloce. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao anche agli ascoltatori. Buon proseguimento. Ci ha messo una chiarezza femme, minchia. Poi questi omologati ricevono meglio le femme di altri apparati e gli altri non omologati. Okay. Ciao già, buonanotte. Vediamo le prossime. Ciao Gianni, buon pomeriggio, molto per le prossime. Ci sentiamo. Però c'è un vizio sto apparato, purtroppo è negativo, che se metti lo squelch, vabbè, cosa che c'è adesso, vedo QRM, tu metti lo squelch per coprire questo QRM, intanto da coprire il QRM, quando tu riprendi moduli, intanto ti sparisce la modulazione, capito? E lo squelch ti copre comunque. Hanno fatto un po' male quello lì, questo. C'è poca dinamica. Copri il QRM, ogni tanto spezzetta anche la ricezione. Non ho capito. Questo è il migliore, mi ascolto bene, sta piovendo a stacca. Guarda il capo, sta piovendo adesso. C'è il cielo di colore luglio. Sì, cielo bianco-rosso. Avevano detto che avrebbe piovuto la nuova. Piovigginato, o è piovigine schiarita, una cosa del genere. A me basta che non ci sia temporale, basta. Non aveva attaccato qualche altra cosa oltre alla ricevitore, per avere l'audio subwoofer, per dire, capito? Allora, quella parola è scalmato e sente la voce tua. Vabbè, ci fosse state meno le donne, ma non ce ne sono più. Ormai le ragazzine usano i PMR, non usano più il barattino normale, capito? Per poter parlare. Quindi il maniaco può farlo solo in PMR. Il 27 mai non è capito nessuno. Signore, sento, chi è quello? Lui dice, boh, deve essere qualcuno che è mezzo malato, dice. Mi rimani, certo, cosa aspetta? Fuoccio! È così che ti conviene, mica. Quando lui almeno sente quello là che sembra la voce, dice, Dio mio, questo deve essere che ha le crisi epilettiche. Facevano l'agguato loro, quelli delle iene. chiamavano. Beh, gente disonesta comunque. Mi arrivano a fare lavori a casa, non attrici, tecnici vari. Sì, io lo so, fuori da me, che sono parecchi che sono così. Io lavoro domani alla faccia. Io purtroppo è così la cosa. Cazzo di nebbia che c'è. Fuori il capo, cazzo di nebbia. La nebbia ti uccide. Cazzo, guarda che c'è fuori. Affacciate la fletta. Qua però siamo in basso. Non so se arriva. Oh, lo faccio in diretta. Qua non vedo un cazzo, Antonio. Appena ce n'è qua. Tu sei in alto. Cazzo, c'è la nebbia, qui non si vede mai poi come si chiama. Ce l'ho di fronte, figurati. Distributore di benzina. Ma sarà fumano, magari ti sta bruciando il palazzo. No, è nebbia. Allora, mi pare che Gianni stasera abbia sentito come di bruciato, così mi pare che avesse detto, e io in effetti abbia tali segni, sentivo come lui di legna bruciata, forse che ci sia qualche piromane in giro. No, questo è roba di cosa, è proprio nebbia. Nebbia fitta c'è. Te lo sto dicendo. Pensavo che stava piovendo invece nebbia, cazzo. Ma una bella passata di nebbia c'è qua. Sì, adesso è nebbia, però stasera, quando sono uscito io a metà serata, in effetti sentivo odore come di bruciato che arrivava, poi Piazzale Segni è aperto, quindi andava da lontano, magari questo odore qua. Ho fatto un incidente a Mortale invece sempre sulla 131, all'altezza lì, non mi ricordo, comunque a sud, e c'è scappato pure il morto, guarda. Ma lì nella zona di Cagliari di tutti i giorni, mi. E ce n'è uno, anche per questa quella gente prende la lotta dal contrario, mi. Ribadisco, poi magari chi lo sa, magari il morto è morto per colpa di altri. Io da 90 che ho la patente della macchina non ho avuto mai un incidente in macchina, mai. E ne ho evitati certi, tipo stronzo che è passato con rosso pieno, io ero in discesa. Come ho frenato la macchina scivolava, praticamente andava verso di lui, mi si è riscontrato comunque, allora ha mollato il freno, ha saltato tutto a destra nel botto, la macchina si è messa di traverso, però sono riuscito a evitare l'incidente. Ma a me quella volta ho avuto culo, a terra era umido, no, dalla notte, se non bagnato, e la macchina ha patinato appena. Sì, campa, meglio così che non ha avuto mai un incidente, almeno sei tranquillo. Va bene Marco, io vado a cuocarmi, è mezzanotte meno 5, sentiamo di mettere domani di mattina. Si accende il baracchino. Ok. Non è tardi, no? Devi lavorare domani. No, devo uscire a fare un cose nell'ufficio. Domani mattina. Poi devo prendere il cane perché devono venire i muratori, non so che si mangi i muratori. E quindi sono tra qui e è casa di mamma, capito? Poi esco in questo ufficio a se esco a cavare qualche cosa. No, devo andare al comune a fare il certificato di residenza. Perché mi è arrivata la mobetta da pagare nel 2004. Siccome nel 2004 io abitavo qua. Quindi evidentemente hanno fatto casino. E poi lunedì vanno via Wagner, gli presento il certificato di residenza alla buona volta, di come questo da quando abitavo io, quindi a me la rondezza di Sassari Vecchio, non ne fate un cazzo, ecco. Li mandate a Equitalia e che si arrangino, che io non pago un cazzo. Guarda, con la fame che c'è in giro è più probabile che i muratori si mangiano il cane. Se scherzi, che è successo a Carbonia? No. Della gente, quindi condizioni economiche precarie, per non dire drammatiche. ha assaltato il cassonetto di un market, un cassonetto, sai, quelli grandi. Allora, il cassonetto dove c'era la roba scaduta, buttata. Questi hanno dato l'assalto al cassonetto, hanno rotto il lucchetto e si sono presi la roba scaduta che era buttata in quel cassonetto che era da portare via. Allora, va bene, vuol dire che se la vendono, non ti preoccupare, anche se è scaduta il cassonetto, la data se la rivendono. Ma se capo quanto avrebbe di roba saluta in giro dei supermercati, però no, anche se saluta di un giorno la vedo sotto il banco, capito, a metà, però te la vendo. No, altro che, quelli ce la sono mangiata la roba, ho fatto capito, la gente povera, per non dire poverissima, roba del terzo mondo, per carità, l'Italia, no, ci sono quei coglioni. No, non c'è la crisi, non c'è. E beh certo, per loro non c'è mai la crisi. Ma li avrei messi al muro proprio. Tipo colpo di Stato, come in Thailandia, che i militari hanno preso il potere. Dovrebbero fare una cosa anche in Italia. Il problema è che ci metti poi. Certo, non i militari. Non so. Ehi, aspetta le pelle, perché sto già fulminando. Lui ti avesse adesso un bel fulmine, messo inquadrato. Non ho sentito troppo, però il fumo l'avevo visto, anche se c'era nebbia. Vabbè, io adesso faccio tutto, ci sentiamo ogni mattina. Sta facendo anche vento adesso, vento forte. Ehi, ciao Antonè, anch'io stacco tutto, dai. Ci sentiamo, alle prossime.